Assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare e parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì. Dai potere alla parola, tu. Potere alla parola, sì. E vai con potere alla parola nella casa. E allora buonasera, ciao, ciao a tutti i nostri amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Siamo qui ben trovati in questa ottavo pillolo di questo nostro spazio radio in cui ci siamo ripromessi dall'inizio del 2018 di affrontare un po' le questioni relative alla cronaca locale Firenze, area metropolitana fiorentina, con particolare attenzione a quello che succede nel quadrante, diciamo così, nord-ovest e soprattutto in alcune vicende nelle quali siamo più precisamente impegnati, che sono le due vertenze popolari che animano la nostra piana fiorentina contro la costruzione dell'inceneritore e più in generale contro tutti gli inceneritori e gli impianti di morte e la questione invece più grande, più ricca e con più implicazioni che è l'espansione, allargamento, costruzione del nuovo aeroporto di Peretola. Oggi, come sapete, ci ascoltate in diretta il lunedì alle 15.30 e poi andiamo in replica il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, sempre allo stesso orario che è le 15.30. Più o meno funzioniamo in questa maniera, nel senso che cerco di mettere da parte le notizie della settimana precedente, che poi nella settimana in cui vanno in onda abbiamo quindi una sorta di ritardo fisiologico di una settimana. Quindi questa settimana, che appunto andrà in onda dal lunedì 19 fino a lunedì 25, questa settimana che andrà in onda dal lunedì 26 fino a venerdì 2 di marzo, in realtà ci occuperemo, ecco i numeri che stiamo invertendo, di quello degli accadimenti, di ciò che è accaduto più o meno tra il fine settimana del 17-18 di febbraio fino a questo fine settimana che è appena passato, che è quello del 24-25. Spero di non avervi incartato troppo con i numeri, ma non importa, perché cercherò ogni volta che leggo una notizia di dirvi da quale giornale è stata presa e anche il giorno in cui è comparsa. Quindi spero, ripeto, di non avervi incartato troppo. Dopo le rituali presentazioni, saluti e appunto le chiacchierine del ben ritrovati, vorrei cominciare questo pillolo di questa settimana andando un po' al contrario, perché ormai mi sono accorto che, come per chi mi conosce sa, sono prolisso, rischio di parlare troppo, a volte forse anche di essere ridondante e ripetitivo. La paura è quella di non riuscire ad arrivare quasi mai in fondo alle notizie che seleziono, nonostante cerco di non prenderle tutte, ma solo quelle che ci sembrano più significative per i discorsi che facciamo e anche quelle che ovviamente a mio tra virgolette, gusto e interesse personale mi sembrano più rilevanti o sulle quali sento di avere qualcosa da dire non eccessivamente generalista o insignificante, sono sempre troppe, ecco, insomma. Quindi vorrei procedere a ritroso perché ho appunto nella fine della settimana di cui mi sono occupato, c'è stata l'uscita di un paio di interventi su una questione sicuramente rilevante che ha animato il dibattito pubblico, indubbiamente in modo più forte, più netto per quanto riguarda il 2017, poi nel 2018, proprio perché si è di fatto trasformata in legge, quindi dato di fatto, si è un po' andata ad affievolire, ma continua ad avere le sue implicazioni, una sua importanza. Mi riferisco alla questione della legge Lorenzin che ha istituito l'obbligo vaccinale. E questione che appunto, come ho detto, ha animato il dibattito pubblico. Ecco, non è, diciamo, metto le mani avanti perché è un tema sul quale si è sollevata una fortissima caccia alle streghe, una fortissima polarizzazione del dibattito, e quindi, diciamo, mettere le mani avanti è doveroso, nel senso che rischio forse anche di, affrontando, volendo porre un minimo di attenzione a questa tematica, diciamo, possiamo rischiare, come spesso è avvenuto quando si è tentato di parlare di questo tema, dei fortissimi fraintendimenti, cosa che vorrei appunto non ci fossero. Nel senso, non vorrei entrare troppo nel merito della questione, ma osservarla e prenderla per quanto riguarda quella che è, diciamo, l'aspetto più mediatico, se così possiamo dire, tenendo anche conto di quello che è, tra virgolette, la mission di questo mio pillole spazio radiofonico, quindi fare un parallelo tra diciamo, l'emergenza malattie infettive che è stata alla base della campagna mediatica che ha sostenuto il decreto Lorenzin e quello che invece è un'altra, diciamo, un'altra cosa che ho così scoperto e che gradisco condividere con voi, tenendo conto appunto che io sono un osservatore, non un medico, non uno, diciamo, uno scienziato, ma un abitante, un cittadino, un lavoratore curioso, una persona che si guarda intorno, che ha d'altronde anche dei, diciamo, dei doveri, come per esempio come genitore, oltre ad avere dei diritti, che è quello di appunto farsi un'idea del mondo in base a quelle che sono le sue conoscenze e senza necessariamente doversi affidare completamente in maniera fideistica, cioè compiendo atti di fede che sono poi alla base diciamo, di scelte irrazionali rispetto ai fatti della vita. Quindi, da persona curiosa che cerca di informarsi e di farsi un'idea del mondo, mi sono approcciato anche appunto a questa questione dei vaccini. Ovviamente non l'ho fatto da solo, l'ho fatto anche all'interno di tessuti e reti di compagni, compagne, attivisti, attiviste, persone che si interessano, si informano, costruiscono anche le proprie competenze in maniera più sistematica e con maggiore disciplina di quanto non faccia io, ma insomma è un dibattito che ci ha un po' investito ovviamente in questi mesi. Probabilmente c'è un aspetto, diciamo, una sorta di lente distorcente, nel senso che gran parte dell'interessamento e del diciamo dell'obbligo all'interessamento rispetto a questa vicenda è relativo a coloro che si trovano nella condizione di genitori. Io faccio parte di questa categoria di uomini e donne che appunto trovandosi di fronte alla scelta di vaccinare i propri figli si sono fatti delle domande su appunto diciamo l'estensione della vaccinazione a moltissime malattie, ben più di quelle che i miei genitori, per esempio, mi hanno senza troppo interrogarsi, vaccinato quando è stato il mio momento da bambino. Oggi, appunto, con il decreto legge Lorenzin, che di fatto è legge nazionale, diciamo, ha istituito l'obbligo per la vaccinazione su una 9-10 malattie. E quindi appunto la questione è dibattuta e ha sollevato un discreto dibattito. Ad oggi probabilmente gli articoli di cui non darò, diciamo, poi lettura, ma giusto notizia, come, diciamo, come spunto, sono usciti il 22 di febbraio e probabilmente hanno come obiettivo, oltre a una generica ribaditura del tema a fini di campagna elettorale, tenendo chiaramente conto che in questo periodo ormai la scadenza elettorale è ormai, insomma, è arrivata, quindi tutto quello che viene detto e dichiarato difficilmente sfugge alla cornice della campagna e della propaganda elettorale. Però c'è probabilmente anche un altro, diciamo, un altro giro di boa che si avvicina, che è quello del 10 di febbraio, scusate, del 10 di marzo, data in cui, se non erro, dovrebbero essere, diciamo, messe in regola dovrebbero essere presentate quindi le vaccinazioni da parte dei genitori dei bambini che sono nelle scuole dell'obbligo. Mi pare che la data sia questa. Ora, no, ora magari mi sbaglio, ma non è poi particolarmente importante se ho detto giusto una bischerata, il fatto che debbano essere consegnate, se le vaccinazioni devono essere avvenute entro quella data, se basta un appuntamento, anche perché appunto intorno a tutta questa vicenda c'è poi un lavorio, diciamo, di studi legali, di avvocati, di medici, insomma di figure anche professionali che si sono messe a disposizione di quello che è stato un variegato movimento contro l'obbligo vaccinale, che i giornali ovviamente hanno immediatamente incasellato con un piccolo termine inglese che è no vax, termine tra l'altro anche denigratorio in qualche modo, perché attribuisce al movimento, diciamo, attribuisce a tutti coloro che mettono in discussione l'obbligo vaccinale una posizione irrazionalista, antiscientifica, di opposizione ai vaccini in quanto tali, appunto, tout court, cosa che non è così. Il movimento, appunto, è una cosa più carsica, più composita, nel quale indubbiamente esistono dei settori che in qualche modo possono ricondursi anche a un certo, diciamo, per certi aspetti anche complottismo, no? Quindi il peso dell'industria farmaceutica nelle scelte del governo. Quindi fanno di alcuni spunti indubbiamente esistenti, ne fanno però un aspetto a prioristico, però sono solo settori. Gran parte delle persone che hanno riempito le piazze, hanno sfilato nei cortei, hanno dato iniziative, hanno organizzato dibattiti in qua e in là in gran parte d'Italia, sono invece persone più, mosse dal buon senso, dal tentativo di fare di scegliere, tra virgolette, il male minore, cioè tra malattia e rischi delle vaccinazioni, persone che ispirano il proprio agire al principio di precauzione, che è quello che diciamo, raccomandano anche gli scienziati. Quindi, diciamo, il dibattito si è appunto caratterizzato e polarizzato in maniera anche strumentale per quanto riguarda gli scrittori del decreto, appunto tra no vax, irrazionalisti, antiscientifici, e invece dall'altra parte quella che vorrebbe essere accreditata come la scienza con la S maiuscola, quindi monolitica, indiscutibile, fondata su valori assoluti. Che dovrebbe controbattere l'irrazionalismo. Questo è, diciamo, in buona sostanza, sintetizzandolo e schematizzando diciamo, la cornice all'interno della quale si è svolto il dibattito pubblico. Dentro questa cornice, appunto, sono usciti questi due articoli, uno del Corriere Fiorentino che si titola Vaccini, la Toscana è più sicura, fuori pericolo 30.000 bambini. Funziona la legge sull'obbligo, raggiunta l'immunità di gregge, grande passo contro il morbillo. Ecco, poi c'è la solita infografica che mostra, diciamo, la salita, l'aumento delle coperture vaccinali, appunto, che sono già state riassunte nel sottotitolo, e appunto, ora non lo vado a leggere perché comunque quello che diciamo, mi interessa farvi, diciamo, gli elementi sui quali mi interesserebbe senza presunzione suscitare e porre anche la vostra attenzione, li abbiamo già detti. Fuori pericolo 30.000 bambini. Questo è l'articolo del Corriere Fiorentino che poi passa a una disamina, dice appunto rispetto alla data che dicevo prima, dal 10 marzo nessuno potrà più bleffare. Ecco, tra l'altro anche l'uso di questo termine così da tavolo verde, come se appunto tutti quei genitori che trovandosi nella situazione di avere i figli iscritti nelle scuole dell'obbligo, quindi stiamo parlando oppure anche delle materne o degli asili. Ricordiamo, perché forse finora non l'ho detto, che dai nidi e dalle materne i bambini che non sono in regola con le 9-10 vaccinazioni richieste sono esclusi perché non sono considerate scuole dell'obbligo, mentre per quanto riguarda le scuole dell'obbligo, quindi elementari e medie, e quindi anche i primi anni delle superiori, data l'allungamento recente dell'obbligo scolastico, sono tenuti a pagare una multa, multe che ancora non sono, non ci sono molti casi sui quali anche le organizzazioni, le associazioni dei genitori che si sono battuti e si stanno ancora battendo contro l'obbligo hanno intenzione di impugnare, di non pagarle per trasformarle in vertenze collettive e bla bla bla, bla e quant'altro. Comunque, ecco, l'idea è quella del bluff, no? Quindi già il genitore che non è in regola con le vaccinazioni. L'idea è quella del bluff, no? Di qualcuno che si presenta al tavolo con le carte truccate, no? E gioca in qualche modo in maniera sporca. Ecco, questo è per l'uso degli aggettivi e delle parole sui quali conviene sempre porre un po' di attenzione, perché è quello poi che fa la differenza, è la narrazione, non è quasi mai il fatto in sé, ma è la narrazione che del fatto si fa. E quindi già insinuare l'idea del giocatore d'azzardo è abbastanza significativo di quello che è il punto di vista espresso dal giornale. Lo stesso articolo su Repubblica, sostanzialmente lo stesso, appunto, lo stesso fatto, che in sostanza non è un fatto, ma appunto probabilmente mosso dall'esigenza dell'avvicinarsi di questa data del 10 di marzo, o comunque di ribadire il buon esito dell'obbligo vaccinale. Appunto, Repubblica titola: In Toscana boom di vaccini, la legge sta funzionando. Ecco che probabilmente questa dicitura, la legge sta funzionando, che ricorre già in due articoli, è appunto la dichiarazione, la velina, insomma, che è stata riportata, forse un comunicato diramato dal Ministero della Sanità o non so che cosa, però insomma, ecco, la legge sta funzionando. Il sottotitolo è: In crescita l'esavalente 95-78% e il quadrivalente 93-5% trainati nel 2015. Ecco, vi dicevo, appunto senza presunzione, quello che è stato un po' il dibattito di questi mesi, forse siamo a un annetto, tenendo conto che appunto le discussioni sono cominciate ad essere un po' più visitate, a penetrare un po' più nel tessuto sociale, a uscire da quelli che sono ovviamente, per ragioni anche di complessità dei temi trattati, a uscire dalle stanze degli addetti ai lavori. È cominciato un po' prima del decreto Lorenzin, perché quando era in discussione, quando si sapeva o trapelava la volontà da parte del governo di andare verso l'istituzione e dell'obbligo vaccinale, le discussioni sono cominciate un po' in quel periodo. Come vi ho detto, c'è stata questa forte polarizzazione, sulla quale non mi vorrei ripetere per non annoiarvi, però ecco, diciamo, teniamo conto che non lo stesso mondo dei medici, degli operatori della salute, che ovviamente è un mondo, una galassia complessa, attraversata da opinioni, punti di vista, direi fortunatamente anche molto diversi e dissimili, e che rendono a chi ha voglia di interrogarsi e di guardare anche un'immagine della scienza e della conoscenza umana che è più simile al vero, o meglio, non c'è una scienza monolitica assoluta. Ma c'è una pluralità di punti di vista e una difficoltà a stabilire metodologie univoche di fronte a problemi appunto complessi come quelli della salute umana. Direi che per esempio mi sembra indicativo, importante, così portare alla vostra attenzione che forse su questa vicenda non vi siete misurati, uno per tutti che un parere competente, non certo riconducibile o riducibile all'irrazionalismo o alla dipendenza da stregoni, chiacchieroni, parolai, gente che promette false guarigioni attraverso finte cure, come quello che è l'accusa da parte del governo e dei cosiddetti scienziati con la S maiuscola rispetto a chi contesta o mette in discussione l'estensione della vaccinazione. Per come si è configurata nel decreto Lorenzin, è la presa di posizione della Società Italiana di Psico, Neuro, Endocrino, Immunologia. D'ora in poi la sintetizzerò come SIPNEI perché ammetterete che è un pochino complesso la dicitura estesa, che però è insomma un'associazione, una società italiana che mette insieme diversi medici che si ispirano il loro agire a un più quello che diciamo possiamo ricondurre a un approccio che viene in qualche maniera definito salutogenetico, no? Riprendendo i lavori di Aaron Antonovsky degli anni 70 e poi sviluppandoli e integrando anche elementi provenienti da altre medicine, naturopatia, omeopatia, medicina tradizionale cinese, agopuntura, insomma tenendo insieme tutta una serie di cose sulle quali non mi avventuro più di così perché rischio poi di dire delle castronerie e che comunque commentava, io questo ve lo vado a leggere, la decisione della Corte Costituzionale sui vaccini del novembre del 2017. Brevemente, la introduco, sostanzialmente ci sono stati dei ricorsi alla Corte Costituzionale che appunto cercavano di mettere i bastoni fra le ruote al decreto, ponendo l'attenzione sull'incostituzionalità di questo decreto. Uno tra i ricorsi più significativi l'aveva fatto la Regione Veneto e appunto è stata la risposta della Corte Costituzionale, ha confermato la costituzionalità del decreto Lorenzin e quindi gli ha dato torto. La SIPNEI, vi ho detto adesso, appunto vi ho letto adesso la sigla, commentava la sentenza della Corte Costituzionale come a nostro avviso pecca di logica. L'argomento principale presentato dalla Corte per respingere il ricorso della Regione Veneto è che l'obbligo sarebbe ragionevole. Perché? Perché sono in forte calo le coperture vaccinali e quindi c'è il rischio di epidemie. Ecco, questo è stato in sostanza l'argomento, no? Di tutto il governo e tutta la campagna mediatica che l'ha sostenuto, quello che ci sono le coperture vaccinali in calo e quindi c'è il rischio di epidemie. In realtà, come abbiamo ricordato, e qui fanno riferimento a dei lavori che loro hanno pubblicato e che chi è interessato se li può andare a cercare, ovviamente sono per la complessità dei temi un po' ostici, però sono nero su bianco, in realtà, come abbiamo ricordato, l'unica malattia che ha mostrato una certa dinamica nel 2017 è stato il morbillo. Tutte le altre hanno avuto una diffusione pressoché nulla. Questo accadeva in assenza di un obbligo vaccinale esteso. Non si capisce quindi perché occorrerebbe estendere a 10 malattie infettive un obbligo che non ha fondamento, se non eventualmente per il morbillo. Ecco, questo è già dice tutto, no? Quindi la malattia, diciamo, presa in esame, messa più sotto attenzione, è il morbillo. Ricordate che vi avevo letto adesso il sottotitolo dell'articolo del Corriere, appunto era: funziona la legge sull'obbligo, grande passo contro il morbillo, quindi è il morbillo, quelli di SIPNEI non parlano a caso, dicono bene, è il morbillo che ha suscitato fortissima attenzione, ancora più di quella che è stata la meningite, ovviamente molto di più di tantissime altre malattie. Quindi poi la SIPNEI continua brevemente dicendo che loro continueranno il loro impegno rispetto a quello che io ho definito un approccio di salutogenesi o salutogenetico più generale, quindi l'attenzione a a molte altre fattori determinanti della salute del bambino e della formazione del suo sistema immunitario. Quindi chiaramente il sostegno alla gravidanza, la naturalità e il rispetto della fisiologia del parto, l'allattamento al seno e l'utilizzo del latte materno, alimentazioni corrette, speriamo magari biologiche e il più possibile senza nocività, e uno stile di vita il più possibile senza stress, una buona vita familiare, un certo equilibrio, appunto la non esposizione a fonti di inquinamento. Questo è, diciamo, il loro approccio alla vita, alla cura e quindi anche alla prevenzione e allo sviluppo e al sostegno del sistema immunitario. Come ho detto, appunto, la vicenda del vaccino, scusate, non del vaccino, appunto del morbillo, tenendo sempre conto che, ammesso e non concesso che si volesse estendere la copertura vaccinale al morbillo, ritenuto particolarmente pericoloso, teniamo conto che oggi il morbillo non è vaccinabile solo come morbillo e non è richiesto il vaccino solo del morbillo, ma il morbillo si vaccina o con il trivalente, MPR per esteso morbillo, parotite e rosolia, quindi sono tre. Per fare il morbillo se ne fanno tre, oppure ancora di più il tetravalente, cioè quattro. Si vaccinano insieme morbillo, parotite, rosolia e varicella. Quindi, anche ammesso e non concesso, ripetiamo, che solo il morbillo, che il morbillo costituisse un reale problema dal quale difendere i nostri bambini, o più in generale la nostra popolazione, teniamo conto che loro ci obbligano a farne tre o quattro insieme. Niente. A questo punto, ecco, mi sembrava curioso fare così appunto un esercizio, tra virgolette, di disvelamento rispetto a quella che è la campagna mediatica. Io ho cercato un articolo, politicamente molto carico, ne ho trovato uno tra i tanti, un articolo comunque recente, che è del 25 di gennaio del 2018, sulla versione online di Repubblica, un articolo che titola "Morbillo, in un anno il 600% di casi in più, 5.000 colpiti e 4 morti. Il PD dice, Lega e Movimento 5 Stelle si scusino sui vaccini". Ecco, mi sembra che questo sia un articolo significativo. Un articolo, come ho detto, forte, nel senso un articolo carico politicamente della tensione del dibattito che più o meno ho cercato di dire più volte prima. Continua dicendo il bollettino del Ministero della Salute, complicazioni nel 35,8% dei casi, in Europa siamo secondi solo alla Romania. L'articolo poi, ve lo vado a guardare nei numeri, perché mi sembrano quelli che sono importanti, e dice... Teniamo conto che è un articolo appunto politicamente carico, cioè che vuole che coloro che hanno cavalcato l'opposizione popolare ed estesa contro l'obbligo vaccinale, che sono Lega e Movimento 5 Stelle, si scusino addirittura per quello che hanno detto. Quindi un articolo del genere però poi dice: nel 2017 ci sono stati in Italia 4.991 casi, diciamo pure 5.000, di morbillo, quasi sei volte quelli del 2016, questo è vero e non è vero, però ammettiamo che sia vero, con 4 decessi in totale. Quindi ricordiamo, su 5.000 colpiti abbiamo 4 decessi. Vado sotto, salto una serie di cose, vado qui. Sono stati segnalati 4 decessi, di cui 3 bambini sotto i 10 anni, di età 1, 6 e 9 anni, e una persona di 41 anni, tutti non vaccinati. In tutti i casi erano presenti altre patologie di base e la causa del decesso è stata l'insufficienza respiratoria. Ecco, quindi in tutti questi casi, 3 bambini sotto i 10 anni e un uomo di 41, in tutti questi casi c'erano già patologie di base. Non ci dice se queste patologie erano gravi, molto gravi, leggere o meno, comunque sappiamo che le persone che sono morte per essere state anche colpite dal morbillo, avevano comunque altre patologie. E questo mi sembra un dato importante, cioè sappiamo che su 5.000 persone che sono state colpite nel 2017 ne sono morte 4, di cui tutte e 4 avevano già delle patologie. Quanto gravi fossero non ce l'ha detto, ma teniamone conto. Ecco, in sostanza, il morbillo, che sembrerebbe essere la malattia sulla quale si è creata l'obbligo vaccinale, che è stato ribadito anche nella dalla sentenza della Corte del Consiglio Costituzionale, come la malattia centrale intorno alla quale estendere l'obbligo per 10 vaccini, ha mietuto 4 vittime. Chiaramente qui non siamo a dire che sono poche, non siamo a dire che non sono importanti, perché sarebbe da stupidi e da irresponsabili, ma lo vorrei metterlo così in relazione a una questione che invece scompare completamente dal dibattito pubblico, o se compare lo è in maniera molto marginale, e credo che nessuno ci pensi. Che io stesso scoperto in questo senso da poco, perché ho scoperto che esiste un'associazione di vittime della caccia che opera più o meno dal 2007 e che redige dal 2007 ad oggi come si potrebbe, un bollettino, un dossier, sì, chiamiamolo dossier, sulle vittime umane della caccia. E diciamo, guardando il rapporto di quest'anno, quello che leggo ve lo leggo dal riassunto che è comparso su un articolo del Fatto Quotidiano, quello che si evince da questo dossier, direi che stupisce per interesse e per numeri, visto che diciamo, i signori, gli scienziatoni, cioè coloro che poi confondono lo scientismo con la scienza, però appunto gli stessi scientisti pretenderebbero basarsi sui numeri, e quindi i numeri molto spesso sono importanti. Ecco, i numeri ci dicono che quest'anno, nella stagione venatoria 2017-2018, allora, i dati sono i seguenti: civili non cacciatori 34 feriti, di cui 24 feriti e 10 morti, tra i cacciatori 80, di cui 60 feriti e 20 morti. In totale, quindi, abbiamo 84 feriti e 30 morti, 3 i minori rimasti vittime, di cui 2 feriti ed 1 morto. Ecco, quindi questi sono i numeri di quella che è la stagione di caccia. Cioè, abbiamo più praticamente 30 persone morte e 84 feriti. Persone che non erano già colpite da patologie, persone sane che sono morti per colpi di armi da fuoco in episodi legati appunto all'ambito venatorio. Non entro nel merito, troppo nel merito e troppo nei dati che vengono forniti in questo rapporto che viene redatto dall'Associazione Vittime della Caccia, che sarebbe comunque interessante e vi invito per curiosità a guardare. Teniamo conto che è un'associazione che svolge il suo lavoro attraverso la raccolta e l'osservazione il più possibile puntuale e sistematica della stampa. Quindi le notizie vengono fuori da articoli di cronaca. Quindi è possibile che i dati siano sottostimati. Non è possibile che siano sovrastimati, perché sicuramente se c'è un morto o un ferito rilevante e c'è un articolo, questo è vero. Dall'altra parte, se invece non c'è un morto o non c'è un ferito, non è possibile che si produca un articolo. Sarebbe invece possibile, come ovviamente capite, che un morto potrebbe anche non diventare articolo di cronaca, o che, a maggior ragione, un ferito non diventi articolo di cronaca. Quindi, mentre questi dati non sono in nessun modo sovrastimati, al limite possiamo, diciamo, con una buona dose di buonsenso e in modo credibile, dire che siano sottostimati, proprio perché non esiste un registro ufficiale che tenga conto e prenda in esame quelli che sono i morti per la caccia, e quindi il lavoro di questa associazione è un lavoro fatto attraverso le cronache giornalistiche, cosa che in qualche modo conferma quello che dicevo, cioè il fatto che è un problema, un fenomeno del tutto scomparso, occultato dall'attenzione pubblica. Io mi domando se, mi domando, vi domando, condivido questa domanda che è retorica, se 30 morti e 84 feriti fossero stati, provocati da uno o più attentati dell'ISIS, se ad oggi staremmo parlando di, colpo di Stato, di, appunto di emergenza sicurezza. Credo che, ognuno di noi sa quello che sarebbe la fanfara mediatica intorno a un attentato o più attentati che hanno un volume di morti, di 30 morti e 84 feriti. Invece, siccome si parla di sport, chiamiamolo sport, siamo a questo, insomma, è un fenomeno del tutto ignorato. Quindi io volevo, diciamo, rispetto a questa questione, appunto, molto dibattuta dei vaccini, dare il mio piccolo contributo a tenere i piedi per terra, cioè, quando, qualcuno, parlerà degli interessi che soggiacciono all'estensione dell'obbligo vaccinale. Sì, dovremmo ricordarci che in effetti le malattie ci sono, sì, sicuramente che le malattie possono anche uccidere, però dobbiamo anche tenere conto di quelli che sono i numeri, che per l'anno scorso, benché venga attribuito al 2017 un'esplosione, un boom di casi di morbillo, teniamo conto che su 5.000 persone ammalate ci sono stati solo 4 decessi su tutte persone che avevano già altre patologie. Quindi il morbillo così descritto, in realtà non è niente rispetto a quelli che sono i morti per la caccia. Con questo non voglio appunto allargare più di così la riflessione che vi ho suscitato, ma era per porre l'attenzione sui meccanismi mediatici di costruzione dell'opinione pubblica, delle emergenze e che in fondo è facile, no? Manipolare utilizzando dei dati. I dati, i numeri, la realtà è sempre un terreno insidioso, è sempre un terreno manipolabile che chiaramente non è scevro da interessi e questo mi sembra, quello che vi ho portato mi sembra un esempio rilevante. Metterò per diciamo nel podcast di questa settimana un'immaginetta, tanto così per essere un po' dissacranti, dove un armatore, no, non si dice armatore, dove un diciamo un artigiano che è anche proprietario di un'armeria, tale signor Cicognani, è andato a San Pietro durante una giornata, diciamo, in cui il Papa scende tra la folla per regalare un fucile da caccia al Papa. Ovviamente a Papa Francesco, Papa Bergoglio, quello che è un Papa ricordato, osannato, in qualche modo già santificato prima ovviamente della sua stessa morte, citato e sbandierato come Papa dell'universalismo cristiano, come Papa della pace e del dialogo, e il Papa è lo stesso Papa che ha incontrato Al-Sisi, il generale egiziano responsabile tra gli altri delle torture e della morte e della scomparsa di Giulio Regeni, lo stesso Papa che ha regalato la colomba della pace al macellaio Erdogan, presidente della Turchia, che sta massacrando proprio in questi stessi momenti, nel distretto di Afrin e i curdi, lo stesso Papa ha accettato anche questo fucile da caccia. Forse nemmeno lui sapeva che nel solo 2017 ci sono stati 30 morti e 84 feriti. Spero di non averla fatta troppo lunga e ora torniamo magari nelle nostre, diciamo, cronache locali. Quindi, come avevo promesso, ritornando indietro, perché queste notizie erano un po' della fine della settimana, ritorno un po' all'inizio e dal 19 di febbraio vi tiro fuori questa perla che, da Repubblica, che dice: studenti in azienda, Firenze dice sì. Mentre in Toscana l'alternanza scuola-lavoro non decolla, qui a Firenze ci sono 983 imprese pronte ad accogliere i ragazzi. Quindi, insomma, in qualche modo Firenze sembra la situazione più più dinamica rispetto a quello che volevano essere le promesse dell'alternanza scuola-lavoro, che spesso è una situazione un po' difficile, anche perché è difficile accogliere gli studenti, non sempre è facile inserirli nei processi produttivi o anche semplicemente che siano di tipo cognitivo o manuale, ci sono appunto delle difficoltà. E quindi cosa scopriamo leggendo poi la notizia? È una cosa abbastanza interessante che Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di Commercio di Firenze, dice: quello che abbiamo fatto per far funzionare l'alternanza scuola-lavoro è stato proprio chiamare una ad una le aziende e cercare di far capire loro che ospitare i giovani, insegnare loro il mestiere può essere una grande opportunità. Cioè, gli hanno fatto capire: guardate che se vi sembra che farli lavorare a gratis sia un problema perché vi porta via tempo, però in realtà, insomma, lavoreranno gratis, quindi trovate il modo di farli lavorare gratis. E quindi poi evidentemente in questo rapporto con le aziende hanno capito che non era facile. Allora cosa hanno pensato? Hanno pensato che ora è tutto gratuito e l'imprenditore non deve fare altro che collegarsi al registro e premere un pulsante. Quindi, anzitutto, gli hanno tolto l'imposta di bollo di 90 euro e i moduli da compilare. Quindi hanno semplificato e hanno tolto 90 euro da pagare. Quindi già gli hanno fatto uno sconto di 90 euro. Ma a spingere le aziende a dire sì ai ragazzi è stato anche un aiuto economico. La Camera di Commercio di Firenze ha proposto un premio che andava dai 400 fino ai 1.300 euro in base al numero di studenti ospitati. Quindi ecco quello che è stato fatto per, tra virgolette, convincere. È stato dato un bonus economico. Cioè, invece che pensare di dare questi soldi, cioè mi viene da ridere per non piangere, perché mi sembra una cosa clamorosa, cioè non si pensa minimamente a dare lavoro a chi ne ha bisogno. Si tagliano i salari già risicati, che poi leggeremo pure dal rapporto della IRES-CGIL che è uscito in questo periodo e è stato commentato anche dalle cronache locali, i soldi per la non una, la seconda, la terza, la quinta, la decima, la milionesima volta vengono dati alle imprese. Quindi dai 400 ai 1.300 euro in base agli studenti ospitati. Insomma, abbiamo distribuito un totale di 85.000 euro. 85.000 euro. Ecco, mi sembrava una cosa appunto interessante da dire, di cui non viene fatto neanche particolare mistero. Quindi il segno della redistribuzione di ricchezza qual è? È sempre lo stesso, cioè si dà alle imprese, si dà ai datori di lavoro, anziché pensare di mettere in discussione e in crisi appunto questo elemento sostanzialmente del lavoro gratuito che viene svolto dai giovani nelle aziende. Se è vero che a volte è difficile che il lavoro sia immediatamente produttivo, nel senso che a volte proprio per come sono configurate le aziende, per il rapporto che si instaura tra adulti e ragazzi, la prestazione erogata dai giovani che arrivano in alternanza a scuola-lavoro non è sostitutiva di lavoro, ma in altri casi sì. E quindi di fronte a questo difficoltà, cioè di fronte alla difficoltà di sfruttarli e ottimizzarli al meglio proprio come risorsa sostitutiva di lavoro pagato, la Camera di Commercio va incontro alle aziende facendo questo. In più, non contenta, sembrerebbe anche voler non solo rilanciare il bonus, ma per il futuro accompagnarlo con dei corsi gratuiti per i tutor, cioè risolvere anche il problema della formazione interna, ovvero se è difficile mettere un ragazzo a valore come forza lavoro perché non è formato, perché non conosce bene la situazione nella quale si va a inserire per il breve tempo nel quale ci starà, si prevede di formare gratuitamente dei tutor, quindi anche di scorporare il costo di un'eventuale formazione o gestione di queste risorse umane gratuite che vogliono essere appunto valorizzate fino in fondo. Salto da un palo a una frasca, sempre il 19 di febbraio, da Repubblica, si vede e si scopre qual è il futuro di Villa Basileschi. Villa Basileschi, futuro da, indovinate? Sì, avete detto giusto, futuro da hotel. Questo è il titolo dell'articolo. La regione vorrebbe cambiare la destinazione per incassare di più dalla vendita. Ceduto palazzo in via Pietrapiana. Allora, che succede? La regione vuole disfarsi di Villa Basileschi per mettere in cassa un buon gruzzolo. Villa Basileschi, dove ha avuto sede comunque degli uffici della, penso di poter dire dell'ASL, ma mi potrei sbagliare. Ora, riguardando un attimo l'articolo, ci dovrebbe essere stata l'ASL, insomma, io ci sono stato addirittura anni fa per rinnovare, appena arrivato a Firenze. Come sapete, io non sono fiorentino di nascita, ma diciamo d'adozione, per rinnovare il libretto sanitario di lavoro. L'Agenzia del Territorio, che è l'ex catasto, chiaramente poi con la trasformazione neoliberista anche degli enti locali è diventato Agenzia del Territorio, però per intendersi è il catasto, ha imposto uno stop. Perché? Perché Villa Basileschi fu comprata poco più di una decina d'anni fa dall'ASL al costo di 20 milioni d'euro. Adesso la valutazione del complesso di Villa Basileschi è ferma all'incirca alla metà, a soli 10 milioni. Quindi come si fa? Come vendere se la valutazione è la metà del prezzo d'acquisto? E quindi che si fa? La stima dei 10 milioni è stata calcolata tenendo conto della destinazione sanitaria che grava adesso sulla villa. Ecco, su questa villa, appunto, dove c'è sede dell'ASL, cioè, grava una destinazione sanitaria. Ecco perché il fatto che ci sia destinazione sanitaria e quindi in qualche modo risponda comunque a dei bisogni sociali urgenti, come appunto sia uno spazio funzionale all'esercizio del diritto alla salute e alla sanità, è grava. Quindi è un peso questo, è un peso. Peso che prima o poi verrà rimosso perché una destinazione che circoscrive le possibilità d'uso. Ma si conta di modificare. Il maggiore interesse riscontrato è per una destinazione di carattere ricettivo, in pratica un albergo. Quindi prima cambiamo la destinazione, poi rifacciamo una valutazione all'Agenzia del Territorio. Ecco cosa suggeriscono i nostri metra pensée. Si cambia la destinazione d'uso, si toglie questo gravame della destinazione d'uso sanitaria, si permette di dargli una destinazione d'uso ricettiva e a quel punto la strada è spianata perché sia un albergo. Chiaramente, purtroppo per chi sa dove si trova lì in fondo a Via Lorenzo il Magnifico, in affaccio sui giardini della fortezza. Chiaramente la collocazione è abbastanza ideale perché tutto ciò avvenga. Stavo per dire, speriamo gli venga un colpo, ma me la tengo perché non vorrei avere cadute di stile. Sempre nello stesso articolo si va un po' più avanti e da un altro capoverso parte con assai meno problematica si è rivelata la cessione degli uffici dell'agricoltura di via Pietrapiana. Stiamo parlando sempre di strutture stabili, edifici di proprietà della regione. Quasi all'altezza della loggia del pesce. La vendita è ormai conclusa. Che ci faranno anche qui? Si sta parlando degli ex uffici dell'agricoltura, come ha detto. Diciamo che si trovano tra via Pietrapiana e via di Mezzo, nel tratto che se voi imboccate via Pietrapiana, dove c'è le poste, imboccate via Pietrapiana e andate verso Piazza dei Ciompi, sulla sinistra, accanto a quella che è la gelateria Procopio. C'è questo stabile, che è appunto della regione, che viene venduto. Viene venduto e che la vendita ormai conclusa, che ci faranno? Dai 2,4 milioni di euro fissati come base d'asta, la partita è stata chiusa a 4 milioni di euro. Ma in questo caso la destinazione era aperta, ecco, non c'era il gravame di una destinazione d'uso sociale come quella di Villa Basileschi, che è gravata dalla destinazione sanitaria. Qui l'immobile acquistato da una società costruttrice finirà per ospitare appartamenti di fascia alta, ci mancherebbe altro, o al più bed and breakfast. Faccio una breve digressione, quindi abbiamo saputo che questi diventano appartamenti di lusso, fascia alta vuol dire di lusso, che Villa Basileschi molto probabilmente diventa un albergo. E guardiamo anche il prezzo, perché oggettivamente direi che 4 milioni di euro, tenendo conto della metratura quadrata, della possibilità di realizzare vari alloggi, in sostanza non è poi neanche tanto, perché se voi pensate al centro di Firenze, pensate che i prezzi immobiliari a Firenze sono altissimi e che tra in qualche modo un 100 metri quadri si può spendere tranquillamente 300.000 euro. Se voi pensate a 4 milioni, non sono neanche tanti. Non sono neanche tanti, quindi la regione vende o svende? C'è anche questo aspetto. Sarebbe già grave se i prezzi di vendita, proprio per la sottrazione di pezzi del patrimonio immobiliare pubblico, fossero elevati, ma a queste cifre ci sembra che la presa in giro sia raddoppi, insomma, ecco. mettiamola così. Si chiude con l'altra partita, perché qui sono partite, ecco, cioè vendere il patrimonio immobiliare pubblico che chiaramente è stato mantenuto negli anni con i soldi pubblici, è stato ammodernato, mantenuto, rimesso apposta, acquisito, appunto essendo pubblico, e oggi venderlo è una partita che si gioca con i soldi degli abitanti e dei cittadini e invece vincite che intascano poi i privati e gli immobiliaristi che fanno affari. L'altra partita è quella di Villa Fabbricotti, si trova in via Vittorio Emanuele, è uno spazio importante anche perché c'è un parco molto frequentato con un'area cani, una delle pochissime in zona, in difesa della quale si è già mobilitato parte diciamo la parte, come sempre, un po' più attiva, più socialmente sensibile del quartiere. Però dicono subito: il parco no. Come chiedono i residenti, ci mancherebbe. Quello rimarrà uno spazio pubblico, quindi per far cacare i cani va bene, ve lo lasciamo. Per la villa invece potrebbe aprirsi un futuro di edifici pubblici, quindi in una zona che ovviamente è meno di pregio rispetto agli appartamenti in centro o a Villa Basileschi che è in affaccio sui viali e quindi a ridosso del centro, su questa che è via Vittorio Emanuele, non è lontana ma certamente vale meno, lì si tengono gli uffici pubblici, sotto si fanno cacare i cani, nel mentre si vendono quelli che sono considerati dei gioielli immobiliari. E niente, come vi dicevo prima, saltiamo da un altro palo a un'altra frasca. Il 20 di febbraio esce questo rapporto della IRES-CGIL, lo storico, come possiamo dire, istituto di ricerca, insomma, sulla redistribuzione dei redditi, sulle politiche del lavoro, sul salario, sui dati occupazionali. Insomma, un istituto di un certo rilievo, tenendo anche conto di quella che è la storia del sindacato e della capacità di quantomeno fare statistica per la presenza nei luoghi di lavoro attraverso le rappresentanze sindacali unitarie e quant'altro. Quindi da questo punto di vista numeri per certi aspetti attendibili. Ecco, molto meno seria sono le parole, le prese di posizione, i commenti, perché come se appunto si stupiscono, come se si scandalizzano, si indignano uomini e donne che fanno parte di una forza politica che oggettivamente, non perché è un parere partigiano di chi sta parlando in questo momento, ma oggettivamente hanno venduto e collaborato con la controparte Confindustria, governo, nelle politiche di austerity, di contenimento del costo del lavoro, del salario, nello smantellamento dei diritti dei lavoratori, e quindi i dati che vanno a citare sono dati che dovrebbero citare mettendo dentro anche la loro responsabilità da assoluti protagonisti del tritio sociale che si è creato, però insomma non è così, ecco, fanno finta di indignarsi e niente, magari qualcuno si sente anche moralmente pulito e assolto, ma insomma ora non è questo. Diciamo, il PIL cresce. Merito soprattutto dell'export, attraverso quello che qualche puntata fa vi avevo definito come una risposta neomercantile del paese Italia e forse ancor più in generale di tutta l'Unione Europea, a partire da una sorta di modello tedesco, per cui si produce qui, ma in realtà quello che si produce lo si produce per venderlo all'estero, tant'è che appunto i lavoratori stessi che producono merci e servizi qui non sono in grado di ricomprarli. Clamoroso, insomma, fu il referendum che Marchionne propose ai lavoratori della Fiat di Torino, insomma, laddove chiedeva: qui o si fanno i SUV o andate a casa, e niente, poi questi SUV non si sa chi li ricompra, molto difficilmente gli stessi operai, insomma, si fanno macchine di lusso e non si riesce a ricomprarle. Se l'economia cresce, non la festeggiano però le famiglie toscane, a parte questo approccio familista, perché neanche i single lo festeggiano. Così i consumi restano al palo. Secondo IRES CGIL non ci sono soldi in tasca perché i redditi e le ore lavorate sono ancora al di sotto di come erano prima della crisi. Il lavoro dipendente ha retribuito il 4% in meno che nel 2010 e gli occupati sono 3,25% in meno. Quindi meno ore di lavoro, meno occupati e meno soldi. Ma solo il 16% delle nuove assunzioni è a tempo indeterminato. Il resto sono contratti a termine, 68%, stagionali o di apprendistato. su 21.932 contratti di apprendistato, cioè la tipologia di contratto che dovrebbe servire ad entrare poi come lavoratore fisso nell'azienda che ti ha fatto prima il contratto d'apprendistato, che viene, come rispetto al ragionamento di prima, favorito da un punto di vista fiscale. Quindi su questi 21.932 contratti di apprendistato, fra gennaio e novembre 2017, solo 5.745 sono stati trasformati in contratto di lavoro, quindi praticamente su quattro persone che fanno gli apprendisti, poi una entra a lavorare. Dati abbastanza significativi di quello che è la ridistribuzione della ricchezza tra capitale e lavoro insomma, nel nostro paese e anche nella nostra regione. Finiscono commentando con tutta una serie di altre cose dicendo: se il Jobs Act prometteva di abbattere le tutele a favore delle politiche attive per il lavoro, le prime sono finite, ma le seconde si sono perse per strada. Questi sono i commenti, diciamo, scandalizzati di IRES CGIL, le cui responsabilità in qualche modo ho già cercato di dire prima. Vado un pochino avanti, è una notizia che mi ha interessato, una notizia del 20 febbraio apparsa sul Corriere Fiorentino, che né Nazione né Repubblica hanno riportato, cosa che non stupisce, sinceramente, però insomma, una notizia sicuramente significativa, ha a che fare sempre con la mobilità, un cruccio mio, ma non mio, di tutti coloro che d'altronde vivono la città, perché la mobilità a Firenze è diventata una situazione davvero allarmante. Allarmante che è riuscita ad allarmare anche un player appunto della nostra area metropolitana, che è Share and Go. Che è successo? Tranvia, questo è il titolo del giornale, Tranvia, la rivolta del car sharing, troppi cantieri, via metà auto. In sostanza, qual è il fatto? Che Share and Go, che è appunto l'azienda che ha messo i veicoli in giro per Firenze qualche anno fa, e scrive una lettera. La lettera è partita verso la direzione mobilità di Firenze lo scorso 30 gennaio, firmata dal vertice dell'azienda, cioè dal vertice di Share and Go. Si chiede di passare da 250 veicoli a 100 veicoli in modo graduale, per due motivi. Quindi ridurranno progressivamente, in modo graduale, la flotta da 250 veicoli a 120. Quindi ci saranno pian pianino la metà delle macchine del car sharing che ci sono state in questi anni. Perché? I motivi sono due. Il primo, i disagi creati dai cantieri della tranvia sono destinati ad avere ancora importanti ripercussioni sulla circolazione, rappresentando criticità che non sono presenta numerose difficoltà di circolazione, ma anche difficoltà nella gestione della flotta dei veicoli share and go, con maggiore aggravio di costi e tempi di piazzamento veicoli, recupero veicoli per le operazioni di ricarica, difficoltà nel raggiungere gli stalli di ricarica privati, recupero dei veicoli sinistrati e altre attività collegate alla gestione della flotta. Quindi, chiaramente, che succede? Se c'è traffico e c'è più casino, la vita è più difficile per tutti. Dal punto di vista di questa azienda, si perde più tempo nello spostare le macchine, nell'andare a recuperarle, nel pagare i lavoratori che devono fare questo lavoro. Quindi questo aumenta i costi. Quindi, se si lamenta Share and Go, avranno diritto o dovrebbero avere il dovere di farlo gli abitanti di Firenze e dell'area metropolitana, che hanno visto moltiplicarsi i tempi di spostamento all'interno della città e che gli ricadono tutti addosso, ne hanno diritto o no? Penso proprio che sia realistico. Inoltre, chiaramente un'autonomia nelle macchine, c'è un'autonomia di circa 100 km, e trovarsi in coda mentre un operatore riporta l'auto a caricare e vedersi finire la batteria rappresenta certo un altro costo aggiuntivo. Share and Go quindi ha deciso di rivedere e ridimensionare l'area operativa e portare le auto a 120. C'è anche però un problema sul centro storico. Il problema sul centro storico è che Share and Go si aspettava di più da Palazzo Vecchio. era in attesa di provvedimenti previsti in merito alla modifica dell'attuale ZTL della cosiddetta zona blu, quindi più volte citata. Quindi Sharon Go è un po' delusa anche dalla politica sul centro, per cui si aspettava che ci fosse una maggiore stretta sulla circolazione degli altri veicoli e quindi di poter essere un player, un operatore in una posizione se non di monopolio, sicuramente di oligopolio, perché se si chiude il traffico a tutto l'altro tipo di veicoli, molto più probabilmente delle persone affitteranno le loro macchine per entrare dentro. Quindi siamo strizzati, come abbiamo già fatto notare nello scorso pillolo, come ho fatto notare nello scorso pillolo, tra quelli che sono gli interessi dell'operatore privato, in questo caso Share and Go, e quello che è invece il diritto alla mobilità. Quindi quando il comune di Firenze si è fatta bella, si è diciamo, ha mostrato questo elemento del car sharing come nuova politica per la mobilità urbana, ecco, teniamo conto che a distanza di pochi anni, ora non ricordo esattamente, e l'articolo non lo dice, quando è entrato sul mercato, insomma, quando è cominciata la vicenda di Share and Go a Firenze, però fu accompagnato ovviamente da una retorica trionfalistica sul fatto che il comune di Firenze andava in direzione della riduzione del CO2, mettendo a disposizione macchine elettriche, la rivoluzione della mobilità sostenibile e tutto quello che abbiamo più volte detto, e ad oggi ci ritroveremo con la metà delle macchine perché l'operatore privato semplicemente se ne va. Come ci spiegava sempre all'interno di questo spazio radio un lavoratore dei Cobas, teniamo anche conto che il comune in questa situazione si ritrova ad essere cliente del servizio, non eroga più direttamente il servizio di mobilità, ma è cliente che poi chiede ad ATAF, chiede a Linea, chiede a Share and Go, ma non è lui che direttamente eroga il servizio. Chiaramente, quindi, la trasformazione neoliberista del rapporto tra imprese private e Stato e quindi enti pubblici ha appunto arrovesciato il rapporto, mettendo quello che doveva essere e che per un certo periodo di tempo è stato il protagonista anche delle politiche di mobilità e quindi l'ente pubblico, l'ha messo in una posizione subalterna, cosa che ovviamente non è successa per caso, ma che la politica ha sposato completamente questa filosofia, ne è protagonista e l'ha fatta propria. E quindi, in sostanza, ci ritroveremo con insomma, è andato via un operatore del bike sharing, sì, ne sarà arrivato un altro, ma insomma, quello che volevamo dire l'abbiamo già detto. Ora riflettiamo anche sulla scomparsa e sulla riduzione delle auto in car sharing. Ci sarebbe tantissime altre cose da dire, ma diciamo funzionale in qualche modo a chiudere questa cosa, la gita di Nardella fuori porta. Perché è andato in missione, fuori Firenze, l'ultimo articolo che mi leggo che è del 23 di febbraio dalla Nazione, Firenze capitale della cultura, il vertice, un primo summit con 60 sindaci a Firenze il 5 e il 6 di novembre. Quindi il primo forum delle capitali europee della cultura si terrà a Firenze 5 e 6 novembre, un'idea nata dall'incontro a Bruxelles fra il sindaco Dario Nardella e il commissario della cultura e formazione Tibor Navracsics. Lo leggo così, non importa la pronuncia. Quindi ci siamo aggiudicati, diciamo, questo evento, grazie alla genialità del sindaco Nardella. Saranno coinvolti enti culturali, università e istituzioni. L'obiettivo quale sarà? Rilanciare una strategia comune per valorizzare il ruolo della cultura, sì, ma poi in sostanza per attrarre turisti, convegnisti a Firenze per questa occasione. Nardella ha anche ricordato che il summit anticiperà l'ormai abituale appuntamento con Unity in Diversity, un consesso di sindaci del mondo che si riuniscono annualmente a Firenze, sull'esempio del dialogo di Giorgio Lapira. Quindi, diciamo, Firenze si accaparra anche questo turismo dei sindaci, che è una sottocategoria del turismo convegnistico. E va bene così. Quello che diciamo forse è più curioso, o perlomeno dal mio punto di vista, era arrivare qui. Questa missione a Bruxelles, dove appunto Nardella si è inventato questo nuovo summit dei sindaci delle città, capitali della cultura, perché c'era? È andato perché si è concluso con la partecipazione al 10º anniversario del Covenant of Mayors, il patto dei sindaci, per aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Quindi alla tavola rotonda sul tema delle città a basse emissioni di anidride carbonica, Nardella ha ricordato le principali azioni di riduzione del CO2 condotte in questi anni. Quali sono? La tranvia, il bike e car sharing, taxi elettrici e l'allargamento delle aree pedonali, sottolineando il ruolo strategico delle realtà locali nella lotta all'inquinamento. Il coinvolgimento dei cittadini, secondo il sindaco, è il primo e fondamentale passo per la creazione di una nuova coscienza ambientale europea. Ecco, quindi Nardella era andato a partecipare a questo tavolo dove ha riportato i successi e l'impegno del Comune di Firenze nella riduzione del CO2 e quindi, insomma, niente, la tranvia che, come abbiamo detto, ha fatto più danni della grandine, che una ne riparleremo mille e mille volte, ora non mi dilungo anche perché sto già sforando, e poi appunto quel bike sharing soggetto agli interessi, agli appetiti dei player transnazionali come OFO, come Mobike, come Gobee, e quella del car sharing che or ora appunto abbiamo detto che se ne vanno metà delle macchine perché Firenze è insostenibile, è invivibile e quindi lo è anche per aziende che vengono con il solo scopo di fare soldi e non certo di ripulire il mondo. Sul coinvolgimento dei cittadini ci ritorneremo in seguito. Pensiamo certo alla vicenda dell'inceneritore e dell'aeroporto, nella quale Nardella per primo non solo esclude i cittadini intesi come abitanti che si auto-organizzano, ci mancherebbe altro, ma addirittura vanno a escludere dall'osservatorio ambientale per il nuovo aeroporto anche i comuni che sono per il no o che comunque sono critici. Quindi un grande ringraziamento a voi per la pazienza e l'attenzione se ce l'avete avuta. Appuntamento per la prossima settimana, sempre con i passaggi a nord-ovest, la stampa rassegnata che va in onda il lunedì in diretta alle 15:30, il martedì, il mercoledì, giovedì e venerdì in replica, e se no scaricatevi il podcast e a pugni chiusi per il prossimo pillolo. Ciao ciao!